La città è stretta, non ti esprimi. Tutti primi, diglielo un po', sì. Non trovo risposte alle mie domande. Il flow si fa gigante, scappa come se arriva la volante. È il contante, sto mondo che comanda. Promesse sempre tante, ma piangere è sempre il mio conto in banca. Mi manca la vita che facevo da pivello. Mi esalta sapere di misurarmi un duello. Ma qua un giorno è sempre più macello. Sfracello questo beat e non ne rimarrà un brandello. Vai bello, questa è l'Italia e questi sono gli andazzi. Non vanno ai live di chi davvero merita, ma di Truce e Baldazzi. Sti cazzi, e io che mi sbatto a scrivere ste rime. Adesso più non hai senso, più sto paese fai successo. Un cesso di donna se vuole scopa lo stesso, mentre un cesso di uomo solo se ha il portafoglio spesso. Son spesso storto e non ricordo la tua faccia stupida, ma lo stile che porto straccia chi non sa ma giudica. Penso già da un po', ma tutti qui stanno in silenzio. Soffro già da un po', tutti che stanno in silenzio. Scrivo già da un po', ma tutti qui stanno in silenzio. Via da sta città per riaccendere già lo spirito. Penso già da un po', così non va. Dovrei andare via da sta città per accendere il gioco spento. Gonfio 24 ore smonto il vostro campione stronzo. Sei un chiacchierone, vai giù in un secondo. Rispondo sempre delle mie azioni. Non puoi battermi come se scommetti alla martingala contro Doni. Il calcio ormai è solo una barzelletta, tutto una truffa. Preferisco andare al bar a bere una birretta. Ti dico che è diretto questo rap. Non capisci di che parlo, infatti rispondi questo retto chi è. Pagine di inchiostro sposto il piuttosto. Col suono nostro è tutto a posto. Se nel posto sta il tuo posto e non fa il grosso. Posso continuare a accelerare, vuoi fare le gare. Tu mi vuoi fare le gare, culo non lo sa leccare. Mai le pare per tutto ciò che è legale. Se legale non vale, che gusto c'è se l'adrenalina non sale. Mi vale veramente, fai fatti e poche parole. Tu parli e sei fastidioso come il riflesso del sole. Ti credi il meglio ma manco vai a te. Noi sei un babbo come uno che sbadiglia mentre piscia contro vento. Drogato. Penso già da un po', ma tutti qui stanno in silenzio. Soffro già da un po', tutti che stanno in silenzio. Scrivo già da un po', tutti qui stanno in silenzio. Via da sta città per riaccendere già lo spirito. Penso già da un po', così non va. Stanno in silenzio. Dovrei andare via da sta città per accendere il gioco spento. Andrew's right. Andrew's right. Ehi, yo. Arcai, sempre qua.